molte persone che provengono dal Nord Africa, non solo dalla Tunisia ma probabilmente anche da altri paesi, stanno confluendo qui a Roma, perché è ovviamente la città in cui non solo ci sono le ambasciate ma l'unico centro che finora sono riusciti a raggiungere dai vari centri in cui erano stati smistati. Stiamo parlando al momento di circa 200 persone, forse anche di più, io purtroppo con i numeri non sono molto brava, devo dire, e che arrivano da alcuni da Civitavecchia, dove erano stati fatti uscire dal centro di accoglienza dandogli un misero biglietto che ovviamente gli ha permesso di arrivare solamente fino a Roma, e qui hanno dormito alcuni anche per 2-3 notti e qui alla stazione Termini. Alcuni vengono invece da Ventimiglia, altri da Palermo, insomma chi è riuscito a prendere un biglietto ed arrivare fino a qui, adesso però ovviamente bisognerà trovare una soluzione. Il problema è che siccome queste questioni vengono trattate a livello emergenziale, Alemanno sta facendo di tutto per creare un'emergenza profughi qui a Roma, ha detto chiaramente che non vuole assolutamente altre persone qui a Roma, sta sgomberando da diversi giorni i vari campi rom, i pochi rimasti, per portare le persone al CARA, al centro dei richiedenti asilo che si trova a Castelnuovo di Porto, creando quindi ulteriore clima di tensione e rendendo praticamente difficile la vita a persone che vivono qui da molti anni. In questo modo anche il CARA di Castelnuovo di Porto, che potrebbe essere una soluzione per queste persone, una soluzione assolutamente inaccettabile secondo me e secondo le persone che sono accorse qui, insomma un po' per curiosità, un po' perché si sono trovate nel corso dei giorni a parlare con questi ragazzi a cercare di trovare una soluzione. È chiaro che la questione è tutta politica, bisognerà spingere sul Comune di Roma per trovare una soluzione, per risolvere non una questione di 200 persone, ma mettere al centro una questione che ormai è italiana, è generale. Non possiamo pensare che le persone arrivano qui e non gli si dia un documento e un biglietto che le permetta di spostarsi liberamente, come tra l'altro anche il ministro Maroni aveva detto, concedendo questo permesso per motivi umanitari, tra l'altro di 6 mesi anziché un anno come dovrebbe essere previsto. Insomma, una serie di veramente scivoloni, di incapacità che questo governo sta dimostrando, che l'amministrazione romana sta dimostrando, ma noi non ci meravigliamo sostanzialmente. Ora stiamo cercando di capire quali saranno le soluzioni. Il comune, che è arrivato qui rappresentato da una serie di persone del Dipartimento per i Servizi Sociali, ha detto che sta promettendo che darà una serie di biglietti da far utilizzare non a tutte le persone ma a quelli che hanno già il biglietto, insomma il tagliando del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il problema è che Trenitalia, e questa è anche un'altra cosa che secondo me dovremmo denunciare, Trenitalia quando incontra queste persone che hanno sì il documento ma che magari non hanno un biglietto diciamo regolare tra virgolette, oppure che non lo hanno, le fa scendere dai treni e le respinge. Alcuni sono tornati da Ventimiglia perché arrivati a Ventimiglia sono stati fatti alla cofrontiera, quindi sono stati fatti scendere dal treno perché non avevano un biglietto che potesse coprire tutta la distanza chilometrica. Cioè stiamo parlando veramente, io non dico di, voglio dire, questioni neanche legali, stiamo parlando di veramente una umanità che sinceramente manca probabilmente anche in chi fa i controlli sui treni. Adesso non voglio fare una questione diciamo così di società civile, però insomma siamo di fronte a questo. Siamo di fronte a un paese che non vuole vedere in faccia la realtà, non vuole vedere che ci sono persone che hanno il diritto di muoversi liberamente nel paese in cui sono arrivate, non per così, non solamente per lavorare, ma anche per trovare una situazione migliore rispetto a quella da cui provenivano.